In diretta dalla discoteca dell'open source Opencast Alpha. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on the mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. Opencast Alpha, puntata 40. 40, signori. La gallina 40. Canta, mi viene da dire, ma non lo dico. Ormai l'hai detta. Siamo arrivati a una puntata quasi storica. Quasi storica. Sì. Perché sì, non sì, è facile fare 40 puntate in questa maniera. Riempire lettere di cacca. E siccome è la puntata 40, ci siamo preparati delle sorprese, delle cose. Non ci siamo preparati niente, signori. No. Abbiamo delle notizie stravolgenti. Tipo? Tipo il nuovo installer di Arc. E poi? Firefox OS e Foxconn. E poi? E poi te lo dico io. Cacchio. Il consorzio Linaro ha buttato fuori la nuova release, sì, 13.5 per processori ARM col kernel 3.10. E poi? E poi, non lo so, i primi aggiornamenti di Debian con i piccoli problemi derivati. E naturalmente l'angolo di DistroWatch. Ecco, troveremo un punto dove è Gentoo. Bene, allora vi ringraziamo per l'ascolto, noi abbiamo concluso, abbiamo detto tutto quello che avevamo... No, non era così. No, almeno la posizione di Gentoo la dobbiamo dire. Vabbè, quindi la diciamo subito o la diciamo? No, la diremo la diciamo dopo. A metà puntata, così. Senza avvisarvi. Esatto. Tra l'usco e il brusco c'è di mezzo un 3, non vi esatto, dico altro. Esatto. Siamo già terzi, visto? Quindi, quindi vogliamo andare avanti? Andiamo avanti. Bella la musica, l'ho scelta io. Cos'è che hai detto? Ce la siamo cercata. Per dirla? Allora, ve la siete cercata, eh? Effettivamente sì, perché non era nelle prime posizioni, siamo andati a cercarla, gente, va bene? Allora, notizie, siamo stati a Taipei, sì, e di persona, siamo partiti sì, la mattina, siamo tornati la sera. Tornati stamattina, siamo andati a vedere le prime presentazioni, come prima cosa la Foxconn, oltre a dei cadaveri di dipendenti che si erano suicidati, ha fatto vedere i nuovi tablet con Firefox OS. Quindi l'accordo sembra fatto, speriamo iniziando a produrre. Vedremo cosa uscirà. Il nuovo tablet col sistema operativo HTML5 oso. Tra l'altro gli hanno fatto un'interfaccia ad hoc, per cui non avrà la stessa interfaccia Doc? Office? No, Doc. e Office. No, Doc. Doc X. No, Doc. Col collo Doc. La interfaccia col collo Doc. Esatto. L'hanno fatto apposta allora. E per cui niente, vedremo come sarà. Speriamo bene. E altre cose che abbiamo visto a Taipei, le taipeniane. Però siamo dovuti tornare a casa subito. Presto. Non è stato. La prossima volta ci fermiamo di più, promesso. Sì, sì. E metteremo delle foto del tutto. Perché... Beh, io a Taipei ho visto una cosa che mi ha fatto perdere la vista: il nuovo Intel Core con Haswell Inside. Praticamente, cioè, che cos'è? Cioè, fisicamente, ragazzi, come si presenta? È praticamente un processore x86 compatibile, che secondo me andrà a dare molta noia ai processori ARM, in quanto a livello di consumi siamo all'incirca sui 7 watt, e come potenza di calcolo siamo a livello di un Intel Core i7, quindi vi lascio immaginare che potenza di calcolo abbiano. Ma io finché non mi viene fra le mani non ci credo. Ragazzi, 6 watt è come un chip. Per me quella consumo SOC è la ventola. Sì. No, ma che vento. Non si sono accorti che era staccato. No, stavo girando. È comunque un SOC, quindi un sistema on chip. Vale a dire, sul chip c'è tutto, dal driver a video, audio, eccetera, eccetera. Ristoranti, pizzerie, eccetera, eccetera. Ma c'è anche boutique, il disco. C'è la disco. È realizzato col processo di produzione a 22 nanometri. Ah, è nuovo. Sì, è di quarta generazione, cioè è una roba incredibile. Pare e dicono sul web che sia una cosa rivoluzionaria. Sono leggeri, silenziosi, scaldano di meno. Silenzio, e vanno belli a vedersi. Silenziosissimo. E vanno veramente forte, vanno immagino. forte. Non lo so, io ultimamente ho appena comprato un portatile con ARM. Non dirmi che adesso Intel se ne esce che è la meglio a fare i processori, eh? No, beh, anch'io con la mia chiavetta quad core. Maledizione. La chiavetta quad core con IMX6 di Freescale. Devo dire che sto facendo delle belle esperimenti. Scheggia. E va bene. Ho messo su una bella Ubuntu, e con una Xubuntu, e devo dire che è molto usabile, ecco, molto perché usabile. Il problema degli ARM è la RAM principalmente. E infatti RAM ARM infatti perché ne ha poca. No, ne ha poca. Ma secondo me può andar bene, perché comunque l'architettura è diversa, capito? Eh sì, ma anche le istruzioni, i programmi no. Per cui quando inizi a usare un programma che da solo ti fa una cache di 200-300 mega, ti sei fottuto. Mizzega, è chiaro che non vai a editare con Gimp una fotografia da 50 giga in RAV. Noi volevamo registrare l'Opencast e no. Nisba? No. Ma sì, ma come potenza di calcolo comunque sì. Gli ARM no. Ne hanno. Il problema però è che swappa. Swappa completamente. Sì, basta mettere un bel disco solido. Solido. È già stato solido. E allora perché swappa? Perché non riesce. Perché non è ottimizzato ancora il kernel? Non riesci a gestirlo. Perché non sei capace. Allora ci riproveremo. Già installare una distribuzione Linux su Linux su un processore ARM è una bella sofferenza. È una bella sofferenza. Sì, ancora non è partita la mia Gentoo. No? No. Ma io ci ho messo la 12.04 e devo dire che va bene. No. Ho provato anche. Sto provando a metterci la nuova 7.0, la Wheezy, anzi. Sì, questa è una notizia che abbiamo già dato nello scorso Opencast, ma di cui vale la pena sottolineare l'importanza di Debian, certo. 7.0 Wheezy. Sì. Pare che sia andata a finire anche sulla stazione orbitante. No, per me hanno ancora la 6. Cioè, tu immagina su che volano. Kernel panic. Calcola che il primo aggiornamento, la prima patch è stato il kernel. Ma dalla 6 dovranno aggiornarsi alla 7 poi, eh? Ma per ora la lasciano così stabile. Intanto... secondo me non lo fanno in orbita. No. Shinabash che debba aggiornare. È così che fanno. E comunque volete sapere i miei aggiornamenti invece come sono andati? No. Basta. Sì, scusa, sì, dai, dici. Allora, dai, su. Il VPS, quello, il mio personale, ha funzionato perfettamente, mentre i serverini in azienda, ok, a parte qualche rogna con Apache, ok, ma per il resto ha girato abbastanza bene. I grossi problemi li ho avuti con i desktop, perché l'unico modo per fare l'installazione, se tu cambiavi i repository facevi un bel apt-get update e poi il list upgrade, più o meno a metà, a tre quarti, random, ti diceva che un pacchetto aveva le firme non corrispondenti, le dimensioni diverse o robe del genere. A proposito di pacchetti, l'unico modo, attenzione a Medibuntu, sì. Ne parli tu? Sì, perché è scaduto il dominio di Medibuntu.org. Non no, è Medi, non debutto. Debian Media. Ecco. Questo perché lo usiamo spesso. Esatto. E comunque state attenti a quello che potete scaricare, perché non è più, cioè già prima era un problema, adesso non è più neanche controllato e non si sa neanche da dove arriva. Vabbè, come minimo vi avvertirà delle firme non valide. L'idea è quella, sì. Però state attenti. Se ce l'avete abilitato, disabilitatelo. Bravi. Io comunque per fare l'installazione, per fare l'aggiornamento, ho dovuto scaricare il primo DVD per ogni architettura che avevo in giro. È Ma tu quante architetture hai? Allora, lui c'ha 32, una 64, un i32, un MD64, un MIPSEL, un PowerPC, tutti, già, è vero. Tutti ce li Clara. C'è anche il sistema l'S400, tu, è vero? L'S400. Hai aggiornato anche l'S400? No. Ah, ecco, mi sembrava strano. Ho i miei problemi. Va bene, vogliamo fare una pausa musicale o facciamo sentire qualcosa? Ho la lingua pelosa, mi porti a bere intanto? Certamente, intanto vi facciamo ascoltare We Are FM. Questa qui è proprio per noi, perché siamo radio. Con My World, un pezzo che my pompa, way. Pompa di brutto. My Way, non My World. My World. My Way. Vabbè, decidi tu come si intitola allora. Sì. Opencast Alpha, il podcast disimpegnato completamente. Completamente. Ma come completamente? GL Como. L'abbiamo preparata benissimo. Vi puntata. Ricordo www.gl-como.it dove potete trovare tutte le puntate, potete lasciarci dei commenti, potete lasciarci adesso, potete lasciarci dei commenti. Scusate, abbiamo avuto dei piccoli problemi di settaggio, però adesso potete lasciarci dei commenti. E pensare che ancora non abbiamo aggiornato il sistema. Tu pensa quando faremo un bel upgrade? No. Sei contento? Sì. Vuoi farlo? Certo. Se no, scusa, uno che gusto c'è se non, non si crea dei problemi nella vita. Vi ricordo altresì che potete scaricarci e ascoltarci un po' quando volete. A proposito di Debian, sì. Notizia dell'altro giorno che Dreamhost è passato dalla sua Ubuntu al è passato, ha detto ciao e si è portato a casa Debian. Quindi offre Debian, Debian Wheezy, per il suo servizio. Il suo servizio. Ziolo. E a proposito invece di processori ARM, segnalo, e anche di Linuxino, è un prototipo con processore ARM A20, praticamente un dual core, grafica Mali 400 se non ricordo male. Praticamente è un Arduino con un processore decisamente prestante, da tenere in seria considerazione anche per il costo, che non è eccessivo, e quindi gli smanettatori armeggiatori, come li definisco io, sono vivamente pregati di acquistare questa bordina e cominciare a smanettarci. Questa è quella che c'ha tutti i contatti compatibili Arduino e anche altra scheda. Sì, ha i contatti IO di Arduino e in più puoi usare tutti i shield. Esatto, puoi usare un casino di sensori vari. Sì, esatto. E soprattutto il processore è veramente prestante. Cioè sì, può essere... la grafica com'è? È Mali 400. Mali. Non puoi dire che la grafica non è Mali. Male. Non è Mali. Come non è Mali? È 400 volte Mali. Appunto. Le dimensioni sono quelle di un po' più grosse di Arduino, quindi un pacchetto di sigarette per intenderci. Non fumate, comprate gli Arduini. Invece una cosa interessante che ho visto sull'internet, sul l'ho visto anch'io, esatto. L'hai visto? C'è che robe che uno shield per Arduino. No, non l'ho visto io. Che permette di interfacciare uno schermo e-paper. A quelli che si vedono al sole. Quelli che hanno una risoluzione tipo carta, che si vedono al sole e che come Pixel Quiet. Eccola lì. Aspettavo questa battuta. No. Vabbè, Pixel Quiet. Ce l'abbiamo, lo sfruttiamo. Un LCD mal capito da tutta la comunità mondiale. Del mondo. Veramente. Perché su Marte lo usano, va bene? No, è stato veramente maltrattato. Secondo me le lobby l'LCD. Esatto, l'hanno mal considerato. L'hanno relegato a un angolo. No, c'è gente che dice ma si vede male. Ma si vede male, ragazzi, voglio vedere voi a vedervi al sole. Un monitor che si vede al buio, al sole, in pieno sole, chiuso. Chiuso. Ma cioè, si vede da dietro. Spento. Cioè, se tu spengi la retroilluminazione e vedi praticamente la pagina come al sole, come se fosse una pagina. Vabbè, comunque, i paper sull'Arduino. Programmabile, sì. Programmabile a livello grafico, quindi esatto, vettoriale, esatto. Menate varie. Da utilizzare. Stanno uscendo anche nuovi modelli a colori dell'e-paper, non so se hai visto. Sì. Ma per me quello in bianco e nero non maturi, la sua, caratteristica principale è per la lettura, per la navigazione un po' non meno. So. Mentre tu vai, ovviamente vanno usati per altre cose, per esempio mentre vai in bicicletta, mentre vai in bagno, in barca, in macchina, prendi il sole, in moto. Sì. Tu hai un aggeggio che ti dice, non so, a che velocità stai andando, e anche se sei contro sole, se sei sulla sotto 1, sole per esempio, o roba del genere, tu vedi esattamente a quanto vai. Vedi. Si chiama tacchimetro. No, quello è quello che misura i tacchini. Ah, è vero. Allora no, è un'altra cosa. Velociodromo. Velociodromo. Ma per favore. Va bene. Quindi questa cosa l'abbiamo detta. L'abbiamo detta, volevi aggiungere qualcosa? Ma guarda, stavo pensando adesso. No. No, niente. Allora, ascolta, ti metto un brano. No, no, beh, se vuoi, ti dico qualcosa io. No, dai. No, ti metto un brano che è un brano interessante. No, sì, sì, sì. Che parla delle telematiche. È un brano interessante perché. Un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. E per cui io mi sentirei di. Di consigliarlo. Di consigliarlo. Vabbè, perché è un tema sempre attuale. La voce di Olivia. Di Olivia? La nuova Cinnamon 15. No, non era Olivia. Sicuro? Ciao. Sono Angelina. La moglie di Braccio di Ferro, dici? No, ascolto, no. Open Castano. No, era Angiolina Giolitti. Era Angiolina Giolitti. Ah, Giolitti. C'ero andato vicino, però ci assomigliava. Teste di cacchio. Dai, facciamo una pausa musicale, torniamo dopo e vi facciamo sapere la top 10 di Distrowatch. Vabbè, con i commenti, perché stasera la commentiamo. Diciamo dove è Gentu. Per esempio, loro sono i Fresh Body Shop, che non so se sono in qualche maniera collegati alla catena Body Shop. Body Shop. Sì, ci danno delle creme omaggio. Quella di Amsterdam. È un'altra. Il brano è Rainbow Stone. Non bella so come questa. Sia perché l'hai scelto. Bella, bella. Esatto, per cui mo ci senti, ascoltiamo. Senti l'attacco. È bello. Hai visto? Basta, è finita. Sì. Open Castalfa, è il momento delle confessioni. Lasciamo la parola al nostro qua co-conduttore. Diciamo che Alberto, ha delle colpe. Che ci deve dire l'angolo di Distrowatch. No, Cicero, cambiamo discorso. Devi dirci dove hai sbagliato, ammettere i tuoi errori. Prima, sì, per no. Cui è l'angolo dell'errata corrige. Allora, riguardo all'Olinuxino o l'Olimex. O Linuxino, sembra un gioco di parole, non ha come grafica una Mali 400, bensì una grafica terra-terra. Adesso non sto qua a dirvi cosa, ma niente di particolarmente potente. Tutto cioè, ci abbiamo chiudiamo. Fatto tutto servizio su. No, chiudiamo la parentesi. Non è Mali. Chiudiamo la parentesi e direi che possiamo andare con Distrowatch, no? Signore e signori, è l'angolo di Distrowatch. Ok, allora partiamo dal numero 10. Numero 10, signore e signore, abbiamo la distribuzione del cagnolino. Papi. Papi. È sempre divertente. Papi merita. Ma solo per il lo sfondo. Guarda, l'ho provata l'altro giorno io su un computer vecchissimo, devo dire che viaggia davvero bene. È molto leggera come interfaccia, ha occupazione di RAM 80 mega circa, va proprio bene, veramente bene. Devo provarla su un mio vecchio computer. No. No, tra l'altro utilizza la pacchettizzazione di Debian, quindi di Debian. È leggerissima proprio. Ok, posizione numero 9. 9 abbiamo... Ci sarà Gentoo. No. No. Abbiamo la Mangiaro. La tua amica. Mangiaro. Mangiaro, sì, derivata da Arc. Ogni tanto ci sono delle distribuzioni a cazzo. Che ha queste uscite, mi sembra, a cadenza fissa, e che purtroppo, secondo me, fanno rimanere il sistema un po' in braga di tela per un po' di tempo. Tutti gli anni che iniziano con la lettera C, i mesi con la lettera Z e il numero del mese con la lettera Y. Ce la posso fare. Allora, era il... Voglio proprio vedere. Il 120 dopo può essere. Sì, quella okay. C'era. Poi c'era il mese... E con la Y. No, non era con la Y, il mese era con la Z. Con la Z. Con la Z era gennaio. Avrei detto zuglio. No, era gennaio, mi ricordo io, era gennaio. E il giorno del mese... Con la Y. Con la Y. Era... ma il giorno del mese? Sì. Osti, questo è difficile. Yesterday. Yesterday. Vabbè, comunque... Quel giorno è uscita una distribuzione. Al numero 8, signori. Ci sarà Gentoo. 8, ci sarà Gentoo. No, non c'è Gentoo. Peccato. C'è la mamma di Mangiaro. Mangera. Sai le mamme che i figli sempre dicono mangia, che mi sei tutto magrovino. Che mi sei magrito, mangia. È la distribuzione napoletana. Sì, ti magrito. No, e Arc invece è al numero 8. Al numero 7? Al numero 7 abbiamo Gentoo. No. PC Linux OS. Vabbè, è utile. Qui non facciamo commenti. Al sesto OpenSUSE. Vabbè, vogliamo commentare? No, non vogliamo. No, anche qui, beh, una delle grosse distribuzioni che comunque sia si barcamena tra il nono e il quarto posto, sempre hai detto poco. Sempre sull'onda, insomma, ecco. Al quinto posto Gentoo. No, c'è Fedora. Oh posto. Cacchio. Però tu pensa. È scesa Fedora. Un po', eh. È scesa un po' a favore Fedora. Ricordiamo la Gentoo Tester. Gentoo Tester. La CentOS Tester. Ormai ragiona ragiona a modi Gentoo. Per dire, al terzo posto Gentoo. No. Siamo arrivati al quinto, c'è Fedora. Scusa. Che ha Debian ha scalzato al quarto posto, ha scalzato Fedora. La 7. Signori, la 7. La spinta della 7. Avere LibreOffice. Massiccio. Ha fatto i suoi effetti. Neanche di poco comunque. Di un bel 200 clicchi. Spacca il culo ai passi. Tranquilli. Il sederino. Al terzo posto Gentoo. No. Al terzo posto Ubuntu. Abbiamo la distribuzione. Ma c'è ancora? Ma anch'io pensavo fosse sulla decima posizione. Ma invece io sapevo che doveva fare i telefoni menate male. Dove sono? Arrivano tranquilli. Vai tranquillo. Speravo si fossero dimenticati. Qualcuno che installa Ubuntu c'è ancora, purtroppo. Tutti quelli vecchi che la utilizzano. Ma sì. Secondo me sono tutte installazioni server queste qui, Di Ubuntu. Chi è che mette su un server con Ubuntu? La sa sta. Vabbè, terzo posto, quindi non meritato posto, bene, sempre Ubuntu. Passiamo al secondo. Gentoo. Secondo posto Gentoo. No. Mageia. Tu pensa Mageia. Ma neanche a, cioè veramente secondo me sta incominciando a prendere piede veramente Mageia. Dovremmo installare pacchettizzazione RPM come ben sapete. Sì, mi ricordo un po' i tempi di quando usavo Mandrake. Ecco, anch'io esatto. Ma è una distribuzione che funziona out of the box, nel senso che la installi e ci lavori subito. Come una volta era Ubuntu. E com'è la leggerezza? La leggerezza, come tutti gli RPM. Cioè... No. cosa c'entra l'RPM? No. Voglio dire, cioè, il sistema è configurato come? Pesante, leggero? Ma no, è leggero. Io non digerisco gli RPM, ma questo è un altro paio di mani. Vabbè, anch'io c'ho un po', mi stanno, cioè sinceramente. E beh, così. Vai allora, di APT e via. Cioè, se cominci a andare di RPM, quando fai un aggiornamento ci metti 20 minuti. Sì, abbastanza. No, io anche di più. Ma tu lo fai con Gentoo. Signore e signori, al primo posto. Aspetta, scusami. Scusa. Al primo posto della classifica di Distrovoce che vi leggiamo qui a Open Castalfa, ce la legge Alberto? Gentoo! Mind! Cazzo! Signori, Mind ha scalzato la grande Ubuntu e si conferma come reginetta di Distrovoce. Però mi raccomando, la versione basata a Debian. Non fate cavolate, ok? È un po' la reginetta dei nostri cuori anche. Sì, non l'ho mai installata. Però mi sta simpatico. No, e noi installate un po'. Gira bene. Adesso io andando a vedere la posizione. Scendiamo. Che cosa? Ma cosa stai facendo? Più giù. Ma per me Gentoo il numero 3 c'era, eh. Allora, attenzione. No, attenzione. Ma per me Gentoo l'hanno messa prima della prima. Fermi tutti. Facciamo un c'è una menzione d'onore. Facciamo un gioco, un quiz. Allora, dai, dimmi. Mi devi dire quale numero della classifica di Distrovoce la so. Questa sera Gentoo si trova dietro. Che meno uno, cioè è tipo meno due, meno tre. Sì. Ma vi rendete conto? Cioè, che numero è? Gentoo è al 32esimo posto. E vabbè, sopra di lei c'è Rosa. No, io non voglio aver sopra Rosa. Appena voglio sopra stare Gentoo. Sopra Rosa. È un altro discorso. No. Sta scadendo. Per moltissimo. Me, quelle di Distrowatch sono pagati da tutte le distribuzioni cattive. Dici? Sì, è l'unica spiegazione. Sì, sono pagati. Sì. Va bene. Io contesterò mandando un telegramma. Cioè, la più scaricata. Al 24esimo posto troviamo la mitica Peer Linux, antagonista della mela. C'è la Peer. Non è male, ma la scaricano per vedere com'è. Va bene, possiamo chiudere l'angolo di Distrovoce? Abbiamo visto il vedibile? Abbiamo tutto. Abbiamo trasmesso l'angolo di Distrovoce. Non so che cosa ho fatto partire. Rifaccio. Abbiamo trasmesso? No. Sì, c'è. Sì. L'angolo di Distrovoce. Bellissimo. È bellissimo, è sempre bellissimo. Io ancora non ci credo. Che cosa? Per me voi mi modificate la pagina HTML apposta. No, perché siete bastardi. Ma no, 32. Per me voi installate 32, dicono gli inglesi, no? Il Firebug, mi modificate l'HTML in diretta. No, sì. E io chiamiamo non me ne accorgo. Quelli di Distrovoce, stasera dobbiamo registrare. Ma dai, Rosa, vi batte anche Rosa. Ma andrei a vedere che cos'è Rosa. Andiamo a cercare Rosa. Descrizione di Rosa Linux. Clicca sul link. Ma noi non ci interessano queste cose. Noi abbiamo altro a cui pensare. No, adesso sono curioso. Voglio sapere perché Rosa è più attrattiva rispetto a Gentoo. Può anche essere che nessuno scarica Gentoo, però, attenzione, perché ce l'hanno installata e fanno gli aggiornamenti. Esatto. Però può anche essere che non la caga nessuno. Però considera una cosa, non essendo una distribuzione che devi scaricare le ISO, una volta ogni tanto, cioè basta. Ma perché Arc è più avanti? Perché è più bello. No, perché in automatico si cancella la ISO. Bello. Perché lui si accorge che tu hai la ISO e te la cancella. È semplicemente perché ci sono più utenti nuovi che installano nuove installazioni di utenti Linux. Nuovi che installate. Ma che cos'è questo Rosa Linux? Ma solo il fatto che è una compagnia russa. Sì, è russa, sì. Ma è basata russa. Is a Russian company developing a variety of Linux-based solution. Ma è basata su Mandrake. Sì, è basata su quel paese. Mandriva. È praticamente una mandriva russa. KDE come desktop environment. quindi l'ha chiamata Rosa. È più cliccata di Gentoo. E vi dico solo questo. E su questo io direi che possiamo chiudere. Abbiamo raggiunto un minutaggio accettabile. Vabbè, volta. Io me ne vado, basta, ciao. Ce ne andiamo tutti, vi salutiamo. No, io me ne vado per primo. Va bene, ciao. Ciao. Ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Microfono. Eh sì, l'ho chiuso, te ne sei andato. Bastardo. Vi ricordiamo ancora www.gl-como.it dove trovate tutte le puntate, tutti i link alle news e alla musica che abbiamo fatto ascoltarvi. Abbiamo ascoltato. Buonanotte a tutti. Notte. E vi lasciamo con un ultimo pezzo. Sono ancora indeciso su quale. No, su quello che abbiamo deciso. Allora, siccome stasera la musica è stata molto scarsa. Come scarsa? Ti raccomando di mettere un brano con le alle. Va bene, questo è il brano che Alberto ha deciso di, di mettere in onda. Vi salutiamo, ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. È tutto basso stasera, non capisco perché. Cioè, c'è dei volumi strani che vanno e vedono. Allora, se non sei buono a fare le cose. Probabilmente è quello. No, no. Dici, forse era un po' troppo giù, completamente a meno infinito. Meno infinito non va bene, allora, scusa. Meno infinito cosa fai? Facciamo le integrali, una derivata? Integriamo la derivata? Va bene. Penso che abbiamo fatto già abbastanza. È un declino dorato. Stiamo derivando noi, derivando proprio. Scusate, ma è un'ora tarda. Va bene, era Open Cast Alpha, la puntata numero 40. Dimenticatevela, vi assicuriamo per il per la cinquantesima puntata faremo qualcosa di così pazzo, forse folle. Normale. Forse normale. All'insegna di Rosa, comunque. Allora. Rosa forever. Saluti a tutti. Baci. Open Cast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. Ok, l'ho trovato, era un si bemolle.